D-I-V-I-S-I-O-N-I. È giunto il momento di prendere più sul serio la parola di Dio piuttosto che le nostre convinzioni. Dobbiamo dare la massima fiducia alla Scrittura e cominciare a diffidare delle nostre valutazioni. L'Apostolo Paolo scrisse ad una chiesa che aveva dei grossi problemi nonostante cercasse di essere condotta dallo Spirito Santo. Perciò vi faccio sapere che nessuno, parlando per lo Spirito di Dio, dice Gesù è anatema, e nessuno può dire Gesù è il Signore se non per lo Spirito Santo. 1 Corinzi 12, 3. I Corinzi avevano un dubbio. Come capire se vivo e parlo per lo Spirito Santo? La risposta di Paolo fu molto semplice. Dal risultato. Dai frutti. Posso essere incerto circa lo Spirito che mi spinge ad agire, ma non posso ritenermi condotto dallo Spirito di Dio e maledire Gesù come non posso proclamare che Gesù è Signore se non per lo Spirito Santo. Nessuno di noi può cambiare le leggi, sia materiali sia spirituali. Nel campo dello spirito ciò che è bene procede da Dio, ciò che è male procede dal maligno. Chi fa il bene è da Dio, chi fa il male non ha visto Dio. 3 Giovanni 1 e 11. Se sono incerto sullo spirito che mi stimola ad agire, non posso essere incerto nel valutarne i suoi risultati. Se gli effetti del mio agire e parlare sono santi, posso ritenere che sia lo Spirito di Dio ad agire. Diversamente, se il mio agire non è santo, anche se sono convinto di essere guidato dallo Spirito Santo, devo ritenere la mia valutazione sbagliata. È in quest'ottica che devo valutare la comunione fraterna. Non vi è nulla di migliore e piacevole che dei fratelli in fede vivano una vita comunitaria. Non vi è nulla che possa glorificare Dio quanto una Chiesa che ha lo stesso obiettivo di Gesù Cristo. Eppure, se vi è un peccato che affligge la Chiesa, esso è la divisione. E pensare che essa è una delle 7 cose che Dio odia. Proverbi 6, 16-19. Perché una Chiesa che si professa unita in Cristo è in effetti divisa? Perché i credenti vivono questa dicotomia nella loro vita? È dovuta alla loro disonestà? Nulla di tutto questo. Il loro vivere in contraddizione è il risultato delle loro convinzioni. Essi sono convinti, profondamente convinti, che il loro modo di agire sia ispirato dal Signore. E questo è normale, altrimenti se fossero convinti del contrario, lascerebbero il loro malsano comportamento. Come riconoscere un comportamento sbagliato e malsano all'interno di una chiesa? La risposta è sempre quella dell'Apostolo Paolo. Dai frutti, dal risultato. Giacomo, il fratellastro di Gesù, è ricco di insegnamenti al riguardo. Ogni specie di bestie, uccelli, rettili e animali marini si può domare, ed è stata domata dalla razza umana. Ma la lingua nessun uomo la può domare, è un male continuo, è piena di veleno mortale. Con essa benediciamo il Signore Padre, e con essa malediciamo gli uomini che sono fatti a somiglianza di Dio. Dalla medesima bocca escono benedizioni e maledizioni. Fratelli miei, non deve essere così. La sorgente getta forse dalla medesima apertura il dolce e l'amaro? Può forse, fratelli miei, un fico produrre olive o una vite fichi? Neppure una sorgente salata può dare acqua dolce. Chi fra voi è saggio e intelligente? Mostri con la buona condotta le sue opere compiute con mansuetudine e saggezza. Ma se avete nel vostro cuore amara gelosia e spirito di contesa, non vi vantate e non mentite contro la verità. Questa non è la saggezza che scende dall'alto, ma è terrena, animale e diabolica. Infatti dove ci è invidia e contesa, ci è disordine e ogni cattiva azione. La saggezza che viene dall'alto anzitutto è pura, poi pacifica, mite, conciliante, piena di misericordia e di buoni frutti, imparziale, senza ipocrisia. Il frutto della giustizia si semina nella pace per coloro che si adoperano per la pace. Da dove vengono le guerre e le contese tra di voi? Non derivano forse dalle passioni che si agitano nelle vostre membra? Voi bramate e non avete, voi uccidete e invidiate e non potete ottenere, voi litigate e fate la guerra, non avete perché non domandate. Domandate e non ricevete, perché domandate male per spendere nei vostri piaceri. O gente, adultera, non sapete che l'amicizia del mondo è in inimicizia verso Dio? Chi dunque vuol essere amico del mondo si rende nemico di Dio? Giacomo 3, 7 a 4, 4. Anche Giacomo fa lo stesso ragionamento di Paolo. Una fonte non può gettare dalla medesima apertura il dolce e l'amaro, e una pianta di fichi non può produrre delle olive. Ragionamento più che logico, indiscutibile. In seguito Giacomo passa a considerare la vera saggezza, quella che procede da Dio. Poiché ognuno di noi ritiene di camminare con saggezza nelle vie di Dio, Giacomo considera chi abbia ragione. Una disputa nasce perché le due parti pensano di avere entrambi ragione, e ciò spesso è vero perché, se non vi fosse una parte di ragione, l'errore sarebbe subito messo in evidenza. Come procedere per comprendere chi ha veramente la saggezza che viene da Dio? Bisogna esaminare ogni situazione, prendere in esame ogni particolare e poi emettere la sentenza, se Giacomo avesse dato questo consiglio. Poveri noi! Ma Giacomo prende un'altra strada, quella di Paolo. La saggezza che viene dall'alto, il giusto comportamento, si notano dai suoi frutti: santità, purezza, spirito pacifico, mitezza, arrendevolezza, misericordia, imparzialità, sincerità. Se vi sono questi comportamenti, in una situazione di conflitto, il credente ha la vera sapienza e la giusta condotta che viene da Dio. Diversamente colui che è convinto di comportarsi bene è in errore. E se non si concilia, se il conflitto è inevitabile, se nonostante tutto si continuano a mantenere delle posizioni perché va difesa la verità a tutti i costi, interrogativi più che giusti e che sorgono da chi ama le vie di Dio. Per Giacomo le cose sono chiare, le liti e le divisioni sono il risultato di passioni negative. Punto e basta. Per l'Apostolo non esistono liti e divisioni in una Chiesa che vengano dallo Spirito Santo. Noi possiamo giustificare anche biblicamente le divisioni tra fratelli, ma dobbiamo credere più alla parola di Dio che alle nostre convinzioni. Ogni divisione è peccato, nasce dalla carne e non dallo Spirito. Punto e basta. Qualsiasi parola detta in più viene dal maligno. Non sono però così ingenuo di pensare che i fratelli debbano sempre e comunque stare insieme, che si debba chiamare bene il male, che si debba violentare la propria coscienza. Anche Paolo e Barnaba si separarono. Si separarono, non si divisero. Ognuno prese un cammino diverso, secondo le proprie convinzioni, in coscienza, ma né Paolo né Barnaba cominciarono a ritenersi nemici. Dalle varie lettere di Paolo non emerge una sola nota di condanna per la scelta di Barnaba. Anche quando Paolo dovette, per la testimonianza dell'Evangelo, riprendere Pietro, questo scontro non fu ragione di divisione. La divisione, cioè quella scelta che mi giustifica e condanna l'altro, è sempre da ritenere fuori dalla volontà di Dio. La saggezza che viene dall'alto, prima di arrivare ad una separazione dolorosa, che lascia delle profonde e inguaribili ferite, soppeserà ogni situazione con amore, cercherà di non ferire, considererà vie concilianti, sarà mite nell'esporre i fatti con verità e imparzialità e alla fine, se proprio vi sono più punti convergenti che divergenti, sceglie la separazione. Se Dio ha concesso la separazione relativamente in un matrimonio che è un vincolo che dura fino alla morte, 1 Corinzi 7:11, non vedo perché non debba esistere anche la pacifica separazione. All'interno di una chiesa o all'interno di un movimento, Dio ci chiama a vivere in pace e non a combattere per le nostre convinzioni. Come non è da Dio una fede espressa in modo giusto ma che fa inciampare il fratello, Romani 14:22, come non è da Dio una cosa lecita ma che non edifica, 1 Corinzi 10:23, così una convinzione anche legittima che porta alla divisione in una chiesa non è da Dio. Tale sapienza è carnale, terrena, diabolica. Parole forti, ma non le ho espresse io. Si tratta solo di crederci. Chi ci crede dubiterà di se stesso, cercherà di comprendere la sua parte di errore e si allontanerà da questo malsano comportamento. Chi non crede a questa sentenza continuerà per la sua strada producendo morte e distruzione. Esaminiamo la giustezza di un comportamento e della nostra fede, ma dobbiamo anche fare Molta attenzione a ciò che producono le nostre convinzioni, perché il regno di Dio consiste in giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo, Romani 14 e 17. Chi considera la vita cristiana in quest'ottica, chi fa ogni cosa per produrre benessere al prossimo, chi non creerà, non cercherà ed eviterà divisioni, è un uomo apprezzato da Dio perché fa le cose che gli sono gradite, 1 Giovanni 3 e 22. Gennaio 2000, Ellero.